con il fotografo Valerio Polici per parlare della sua mostra Ergo Sum a Roma, alla Galleria del Cembalo, dal 18 aprile al 24 maggio 2019. Valerio, ben trovato. Grazie Federico, buongiorno a te. Descriviamo cos'è questa mostra. È il risultato di 6 anni di viaggi tra Europa e Argentina, seguendo diversi gruppi di writer nelle loro missioni. E diciamo che è anche un diario autobiografico, perché io stesso sono stato un writer per tutta la mia adolescenza, solo che a un certo punto, diciamo, in questa ricerca di libertà che avevo in questo mondo parallelo, qualcosa si è rotto e la claustrofobia, un senso di prigionia ha preso il sopravvento, quindi questa cosa mi infastidiva, ho deciso di fare un passo indietro e cercare di capire quali fossero le ragioni. Quindi quasi per scherzo e per gioco ho preso una macchina fotografica, ma senza conoscere il mezzo, ho iniziato a fare foto. E lentamente l'interesse per la fotografia ha soppiantato quello per i graffiti, quindi ho continuato a viaggiare fotografando i miei amici e sono diventato un fotografo e, diciamo, liberandomi da quel senso di oppressione. In questa ricerca, in questo lavoro sull'opera dei writer, cosa hai scelto come tematica? Su cosa hai puntato? Il lavoro ovviamente all'inizio era molto vasto e aveva forse un taglio più giornalistico, descrittivo, però ancora una volta anche quello non mi interessava molto e volevo porre l'accento più su quel senso di oppressione del quale ti parlavo, quindi per la selezione finale ho optato per immagini più aperte, quindi più ambigue, più metaforiche e quindi il discorso sui writer diventa solo una prima chiave di lettura. E si parla più di quel senso di claustrofobia che raccontato nei tunnel e nei sotterranei della città è più evidente. In generale, devo dire, quando un'immagine è più scarnificata e si levano più elementi descrittivi, mi interessa sempre di più perché anche il ruolo del fruitore diventa meno passivo, perché se in un'immagine diventa imprendibile, incollocabile, quando tu la guardi è come se in un certo senso si liberasse da me. E quindi ognuno con il suo background visivo, poetico, eccetera, può fare la sua storia, può creare una sua esperienza e quindi si apre a nuove possibilità. Per questo sia l'installazione fotografica che video è come se non giungesse mai veramente a un punto, no? Cioè un'azione che non si esplicita mai, ma rimane sempre un po' sospesa su quel dubbio, su quel mistero. Ci hai raccontato delle origini della tua passione per la fotografia e che percorso hai intrapreso? Sono abbastanza convinto che questo linguaggio potesse essere adatto a me per continuare ad usarlo sempre in un modo terapeutico, devo dire, perché attraverso la fotografia e il video riesco sempre a liberarmi un pochino, a levarmi un po' quei sassolini che ho dentro. Ho seguito qualche workshop, perché nasce sempre come da autodidatta, poi ho seguito qualche workshop di approfondimento, ma devo dire che l'esperienza più importante è stata nel 2015, quando Antonio Biasiucci, che è un grande artista di Napoli, mi ha selezionato per il suo laboratorio regolare, quindi per 2 anni e mezzo mi ha seguito gratuitamente, me e altri 7 giovani fotografi, cercando di passarci quello che è il suo metodo di ricerca. Lui a sua volta è allievo di Antonio Neviller, che era un grande regista di teatro napoletano, scomparso prematuramente, e lui ci ha tramandato questo metodo, ci ha passato questo metodo e devo dire che è stata un'esperienza importantissima, perché poi forse la mia è una generazione molto manchevole di maestri, quindi a un certo punto avere una figura di riferimento così, così solida fa tutta la differenza. Poi ovviamente terminato il laboratorio siamo andati tutti un pochino in crisi, perché il peso di una presenza del genere si sentiva, però le crisi sono importanti e quindi 2 anni di buio ancora una volta, ma forse oggi sento di aver trovato un po' la mia misura, che è quella che cercavo rispetto a questo mezzo, a questo linguaggio fotografico. Tornando alla mostra, qual è la tua idea di città e di street art? Come fotografo, ma anche del writer, certo, in rapporto alla città. Sicuramente, anche se sembra un po' paradossale, il rider ha un rapporto di grande amore con la città, perché forse la conosce meglio di chiunque altro, no? Ogni angolo, ogni entrata ha un significato particolare, diventa un po' un piccolo nato questo movimento, mi sembra molto interessante, verso la fine degli anni 60 in America, cioè gli anni della profezia orwelliana dei 15 minuti di fama per tutti, a un certo punto arriva un disgraziato e dice ma questa profezia per me non si avvererà mai, e quindi con un'intuizione quasi fanciullesca prende un pennarello e inizia a scrivere il proprio nome col civico della casa dove abitava in giro per la città, per dire io esisto e ti impongo, no, il mio passaggio, la mia esistenza. Forse oggi in questo senso è cambiato un pochino, perché ha poi scavalcato, cioè non è più un retaggio delle classi sociali meno agiate, ma abbraccia un range molto più ampio, perché forse noi che siamo cresciuti un po' negli anni 80 con tutte queste promesse di vite speciali, poi ci rendevamo conto che rimaniamo sempre degli sfigati, e il writing in questo senso può fungere da antidoto, perché tu improvvisamente diventi un personaggio di videogiochi, la gente segreto che hai sempre voluto essere, sgattaiolando nei cunicoli, e quindi anche la metafora del sotterraneo forse mi sembra interessante, e come dire, questo tuo alter ego si diffonde un po' come un virus per i villi intestinali della città, quindi ancora una volta il rapporto è molto, molto profondo con la città, cioè c'è un grande legame. La street art è una deriva interessante che nasce da questo, che trova via delle grandi potenzialità, e ci sono sicuramente dei grandi artisti. Troppo spesso mi lascio qualche dubbio, nel senso che poi molte volte sembra più decorazione, senza una grande ricerca, un grande messaggio, che quasi diventa uno strumento spesso per gentrificare un quartiere. Allora là mi lascia dei dubbi, sì. Cioè, rispetto a quella che era la dimensione originale, dove c'è anche un altro aspetto interessante, perché da un certo punto di vista quello dei graffiti è un gioco a perdere, no? Cioè non ci guadagni nulla, e quindi questa purezza è interessante, perché non è orientata a un profitto, non è orientata a un guadagno, ma è puramente irrazionale. Sì. E quello lo trovo molto affascinante. Anche destinata a deteriorarsi. Sì, assolutamente, anzi, certo. Cioè, quando metti una tua cosa per strada non sai quanto possa durare, no? Perché è soggetta a qualunque possibilità. Certo. Senti, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web sia riguardo al tuo lavoro che a questa mostra in particolare? Questa mostra, devo dire, in realtà nasce a Reggio Emilia, in occasione del Festival di Fotografia Europea, in uno spazio molto bello che si chiama lo spazio C21, gestito da privati, e che cerca di portare avanti proprio questa missione, cioè espone solamente artisti che provengono dal mondo dei graffiti e della street art, e quindi si sono formati per strada, senza un percorso accademico, e quindi ha inaugurato il 12 aprile nello spazio C21, nel quale rimarranno 4 vetrine con delle stampe molto speciali fino alla fine del festival, e da là poi l'abbiamo portata alla Galleria del Cembalo, dove rimarrà fino al 24 maggio. Il mio sito è valeriopolici.com, galleriadelcembalo.it, si trova a largo della Fontanella di Borghese 19, in questo palazzo pazzesco che è Palazzo Borghese, aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 11 del mattino alle 19. Un'ultima curiosità, rispetto alla street art, ci sono dei nomi che ti piacciono di più, che ami in particolare? Sì, direi di sì, forse sicuramente uno di quelli che più mi piace è Bills, portoghese, sì. Ho avuto la fortuna di conoscerlo perché poi ho vissuto a Lisbona, quindi anche dei miei amici rider e la mia crew sta lì, e la cosa molto bella che fa lui, devo dire, ha fatto un ragionamento inverso, cioè nasce nei graffiti e dice ok, ma il graffito che cosa è se non mettere uno strato su strato su strato, se levassi strati cosa succede? Siccome è un genio, ha piazzato delle cariche esplosive su un muro e ha fatto esplodere, quando scende il fumo sul muro appare un volto o una scritta, e quindi mi piace moltissimo che un gesto così violento lasci poi in realtà un risultato così poetico. Allora, ricordiamo la mostra Ergo Sum a Roma, la Galleria del Cembalo, dal 18 aprile al 24 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Valerio Polici. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio a voi, buona giornata.